L'ancan di giorno son long che mai, mes beis tous chans tous eis de l'on. E can me sui partis de l'ai, remembram d'un amor de l'on. Vau de talan en bronx e clis, si che chans ni flors dal despis, non plats plus che l'hiverns gelats. Giamais d'amor non giausirai, una giovane donna di Tolosa. Belle e gentil, d'onesta leggiadria, e tante dritte e similiante cosa ne suoi dolciocchi della donna mia, che fatta dentro al cor desiderosa l'anima, in guisa che da lui si svia e vanne a lei, ma tanto è paurosa che non le dice di qual donna sia. Era in penser d'amor quand'i trovai due foresette nove, l'una cantava e piove, gioco d'amor in noi. Era alla vista lor tanto soave e tanto queta, cortese e umile, chi dissi lor: vo portate la chiave di ciascuna vertù alte e gentile, de foresette non m'abbiate a vile per lo colpo ch'io porto, questo cor mi fu e morto poiché in Tolosa fui. Elle con gli occhi lor si volser tanto che vider come il core era ferito e come un spiritel nato di pianto era per mezzo dello colpo uscito, poi che mi vider così sbigottito, disse l'una che rise: guarda come conquise forza d'amor costui. L'altra pietosa, piena di mercede, fatta di gioco in figura d'amore, disse: il tuo colpo che nel cor si vede fu tratto d'occhi di troppo valore, che dentro vi lasciaro uno splendore, chi non posso mirare. Dimmi se ricordare di quegli occhi ti puoi. Alla dura questione paurosa, la qual mi fece questa foresetta, i dissi: e mi ricorda che in Tolosa donna m'apparve a cordellati stretta, amor la qual chiamava la mandetta, giunse sì presta e forte che fin dentro alla morte mi colpir gli occhi suoi. Molto cortesemente mi rispose quella che di me prima avea riso, disse: la donna che nel cor ti pose con la forza d'amor tutto il suo viso, dentro per gli occhi ti mirò sì fiso ch'amor fece apparire, se t'è grave il soffrire raccomandati a lui. Vanne a Tolosa ballatetta mia ed entra quietamente alla dorata ed ivi chiama che per cortesia d'alcuna bella donna sia menata dinanzi a quella di cui t'ho pregata, e s'ella ti riceve dille con voce leve: per mercè vegno a voi. Vibus aureus, ilse ora lustra, et nituri rose ho, radios illustra, venus data simile, pazzi e florante, florem nato simile, dat febo fa ventre, auratum suavium, grazie aiuvante, sonat nemus avium, voce modulante, filomena querula, veri aritratta, dum canendo merula, carmina coapta, iam dionia, leta corea, se dolore sunat cantibus orum, iam qued dione, iotsis agone, relevat cruciat corda suorum, vi quoque subtrahit illa sopori, in vigilare que cogit amori, te la cupidinis aurea gesto, igne cremantia corda molesto, quod mici datur ex habeo, quod qui negatur hoc habeo, mente severa. Quod mici sedit ancabeo, qui non obedit huic habeo, sunque revera. Fideli seu peream, seu relever peream, qui cupitan fugivo, qui fugitan cupio, plus renuvo debitum, plus veror invetitum, plus licet illibitum, plus licet illicitum. O metu henda dione decreta, o fugi henda verena secreta, fraudi octo furoris in esto punire, post octo amoris amara subire, in olivoris urentis setire, inc mihi metus abundat, in cora pretus si hundat, inc mihi pallor in ore, esquia pallor amore. Nella sua bocca spiccano perle, chiuse nel cerchio della corniola. Acuminate lame di ciglia, sono una spada fine a due tagli. Un solo bacio su quella bocca apre il sentiero della paura. O voi che in tanti vi stupite di questa bianca antilope che senza rete afferra col solo bagliore di uno sguardo il mio cuore. O voi che pazzo mi chiamate e non sapete quanto umana sia la pazzia che patisco. Non voglia Dio punire per mia colpa la carnefice che con la frusta dell'insonnia scaccia il sonno dai miei occhi. Non voglia Dio punire la sua bocca che come rugiada sul fiore della camomilla stilla gioventù il suo umore, volesse invece il cielo, per grazia ricevuta, estinguere nella sua frescura la sete del mio ardore. La tua bellezza iscrive due parentesi sulle tue guance e sulle sopracciglia due ondulate N. Così questa scrittura reca un senso sottile e dona agli occhi più concentrazione. A un folle innamorato tu dicesti di no, scrivendolo due volte questo no, e disse: hai generato meraviglioso senso, certo tu sei il poeta più mirabile tra tutti quanti gli uomini e gli spiriti. La civettuola, eccola, che non molla dal far giocare la sua indole asprigna contro la mia dolce indole. Com'è slanciata nel suo muovere col rametto di salice che le dà grazia, ma nel muovere pur flessuosa come la duna di sabbia. Quando persiste nel non darmi bado, ne inclina al trepidare che unisce, persisto io nel voler unire. E mi dico, forse al disdegno seguirà almeno uno sguardo, e quanta mai verzura crebbe dopo lo sterile secco. O tu che annullasti il mio sonno e il mio sangue versasti, che il nodo scorsoio stringesti dicendo sì alla mia morte, con il tuo raggiante occhio, volutamente mai messo a morte, e non c'è nemmeno taglione per chi d'occhi uccide. Per Dio pavona, sii gentile, parti, mostrati dolce verso la selvaggia. Dille che Abdalaziz ha pianto ed ha irrorato con tutte le sue lacrime le colline assetate. Ed ha preso la penna per scrivere le cose che ha incontrato, ma la mano tremante lo ha tradito. خدایا زلفای رو بی‌نظیره، به شهرم تا به انگور خدایا زلفای رو میرزیره جدایی زخم نسور خدایا زلفای رو میرزیره های زلفای رو میرزیره لباش چو قیماشی به گردم دور چشماش برق و برق شمشی خندونو میاد یواش یواش یواش میاد صدای پاش گرسی نپای یارم جیره آی دلم به زنجیره آی زلفای یارم بی نظیره لباش شقی موقع شیره بگردم دور چشماش برقا برق شمشیره همه کوه و کمر سنگ و زغاله زلفای یارم می‌نزیره رفیقان جمع شوید سنگ بر بچینی زلفای یارم می‌نزیره که یارم زفته و چشم و به راه زلفای یارم می‌نزیره آی زلفای یارم می‌نزیره لباش شمی درمونو میاد گل ازار خندونو میاد یواش یواش یواش میاد صدای پاش ارسی نپای یارم جیره آی دلم بزن جیره آی زلفای یارم بی نظیره لباش شقی موشیره بگردم دور چشماش برقا برق شمشیره آی زلفای یارم بی نظیره لباش شقی موشیره بگردم دور چشماش برقا برق شمشیره. Vieni allora, tenera amica, che amo come il mio cuore, entra nella mia stanza piena di ogni ornamento. Lì son pronti i sedili, tutta un velo è la casa, sparsi ovunque son fiori e fragranza di erbe. È imbandita la tavola, piena di ogni alimento, vino limpido abbonda, tutto ciò che ti piace. Senti musiche dolci, suonan alti anche i flauti, un ragazzo e fanciulla sapiente scrivono canti bellissimi. Questo tocca col plettro la cetra, quella forma canzoni sulla lira. Ecco i servi che portano vassoi pieni di coppe varie, colorate. Non mi piace soltanto il banchetto, quanto il dolce colloquio che segue, non la sovrabbondanza di cibi, ma il calore dell'intimità. Vieni allora, eletta sorella, più di tutte le cose a me cara, luce chiara della mia pupilla, parte più grande dell'anima. Io rimasi da sola nel bosco e mi piacquero i luoghi nascosti. Molto spesso fuggivo dal chiasso e scappavo da gente, confusione. Ormai sciolgono il ghiaccio e la neve, rinverdiscono l'erba e le foglie. L'usignolo ora canta nel cielo, nella grotta del cuore arde amore. Mia carissima, non aspettare, dedichiamoci ora ad amarci. Senza te non potrò più vivere, ora è giusto finire l'amore. A che serve, mia eletta, rinviare ciò che dopo comunque va fatto? Fallo subito, quel che fare dovrai, io non posso aspettare. I tuoi colori li ha fatti Iddio, Signore. La tua fronte somiglia a una margherita. Dio ti ha dato l'oro rosso. I tuoi capelli sono un linguaggio d'oro. Il tuo collo si innalza diritto. Colmi globi sono i tuoi seni. Hai guance di un rosa gentile, ciglia di un nero di Londra. I tuoi occhi sono recinti di luce, il naso è di soave fanciulla, tu sorridi le cinque delizie, il tuo corpo sottile mi toglie alla fede. Bellezza mia, vieni sul pendio, il nostro letto sia alto sul colle, quattro età sotto fresche betulle, un materasso di fresche foglie con frange di felci lucenti contro la pioggia che batte, una coperta di alberi che frenano lo scroscio. In nome di Dio non più pane e acqua, getta via il crescione. In nome di Maria lascia stare il rosario e la religione dei monaci di Roma. Non essere una monaca a primavera. Il convento è peggio del boschetto. La tua fede, mia bella creatura, volta le spalle all'amore. Il pegno d'un anello, un mantello, una veste verde sono per te ordinazione migliore. Vieni alla betulla dai larghi rami, chiesa del cuculo nel bosco. Nessuno là si befferà di noi se fra il verde ci guadagniamo il cielo. Tienti a mente il libro di Ovidio e per favore non troppa religione. Thank you. Lessi la vostra carta con esame attento e toccai quelle poesie con mano nuda. Srotolai il volume due volte, tre volte, godendo, ne riuscii a riacquistare le forze, discutendo le parole ad una. Mi piaceva quel libro, erano versi bellissimi, e spesso passai le giornate leggendolo. Notte odiosa alle passioni mie, ostile alla lettura, mi costrinsi a lasciare il mio studio. Ho messo il tuo foglio nel grembo e sotto il seno. Il seno sinistro dicono sia più vicino al cuore. Se potessi imparare a memoria i tuoi scritti, ogni parola manderei al mio cuore, non nel grembo. Donna Carenza, che bel corpo avete! Consigliate noi due sorelle, e poiché meglio sapete distinguere il meglio, consigliatemi secondo la vostra esperienza. Mi sposerò secondo la vostra opinione o rimarrò pulzella? Mi piacerebbe, poiché non penso sia buona cosa aver figli, ma è troppa pena essere senza marito. Stanca, alla fine cedetti il mio corpo al sopore notturno, ma l'amore inquieto non conosce la notte. Cosa sperare, cosa non era permesso sperare? Era il libro a creare speranza, era la notte a dare libertà. Ero insonne nel sonno, perché la vostra pagina dentro il mio grembo mi bruciava le viscere. O se mi concedessero anche solo di guardare il profeta, o se mi concedessero anche solo un istante di colloquio, o che maestro, che poeta capace, o come è divina la voce con cui canta, che sapore le parole sue, che discorso sapiente, che uomo sensato è costui nella penna. Penso che lo sia ancor di più nei fatti, con grande accortezza tutto dice e fa. E se Roma l'avesse meritato come figlio, sarebbe il duro Catone, lui sarebbe Cicerone. Donna Carenza, mi piacerebbe prender marito, ma penso che far bambini sia gran pena, che poi i seni pendono, il ventre si sciupa e si affatica. Com'è bello quel che dice di me nei suoi testi, com'è nobile. Io lo vedo nei versi, in altro modo non posso. Che peccato non poter vedere ciò che bramo ed amo. Il desiderio mi prende mentre prego a giorno, e in vano e fondo implorazioni a Dio. Un anno se n'è andato senza poter vedere colui che cerco. Leggo sempre e solamente i versi. Certo due o tre compagni sarebbero presenti, anche se basterebbe da sola la sua correttezza. Nessuno avanzerà dubbi o sospetti, e con me starebbe almeno mia sorella. Chiaro giorno sarebbe se il destino non ci cogliesse qui, ma per la strada. Ecco, veglio, sto sveglia, mi tien sveglia il suo libro. L'ho letto tante volte, mi è arrivato ieri. Ma che faccio? Motivo non c'è perché io mi rigiri tutta notte, non c'è motivo di implorare con l'ansia del cuore. Non verrà da me l'uomo che ho sete di vedere, l'uomo che la terra di Poitiers troppo ha stancato. Forse ha mandato le poesie a me che soffro, perché le sue parole mi indirizzino, per dissimulare gli inganni della lettera, perché la carta sapiente consoli i miei timori. Ahimè, perché ho paura, non riposo tranquilla, non è sicuro l'amore, né sicura la sua lealtà. Alais e Iselda, so che avete educazione, merito e bellezza, giovani e freschi colori, cortesia e valore, e siete più sagge di tutte le altre. Perciò vi consiglio, per dar buoni frutti, di prendere in marito colui che è coronato di sapienza, da cui avrete frutto di figli gloriosi. Chi lo sposa resta pulzella. Alais e Iselda, ricordatevi di me e conservate l'ombra della sua protezione. Quando sarete con lui, pregate quel glorioso che alla mia morte mi tenga presso di voi. Ho paura di perdere colui che tanto amo e con il cuore innanzi ho percorso la notte. Ma ecco l'aurora conduce lucente i suoi carri, gli arbusti già suonano i richiami degli uccelli. Attaccherò a scrivere, poiché la scrittura non conosce imbarazzo. Per dire le parole adatte al mio signore, molto gli scriverò che non saprei dirgli di persona. L'audacia di vergine reprime spesso il pudore. Magari gli piacesse quel che detta un animo d'amante, gli renda grazia il canto dei miei versi. Tu stesso, amato mio, comandi e ordini di dedicare forze a opere caste. Farò come comandi, lo desidero anch'io. Così ho deciso di vivere i miei giorni. Fui casta, sono casta, voglio restare casta, se potessi essere sposa di Dio. Ma non per questo rifiuto il vostro amore. Una sposa di Dio deve amare i suoi servi. Da te, se potessi, verrei anche a piedi o a cavallo. Non sarebbe fatica o vergogna. Io verrò se potrò, se potevo venivo, ma crudele megera disturba l'uscita. E tu invece, signore, non sei chiuso da nessun guardiano. Tu che hai molto potere sei temuto anche dalla megera. Dunque affretta i tuoi passi e vieni a trovarmi. Hai mezzi a sufficienza e compagni. Molte sono le occasioni di venire da noi. Un discorso da fare col prete di città? O missioni per conto del clero di abate? Questo o quello mi manda a sbrigare ambasciate? Ma sono pazza! Che consiglio a fare? Sei tu che mi devi consigliare. Se ti manca un pretesto, sei tu che non vuoi venire. Se da me non verrai, non ti sto a cuore. Le tue viscere non abita neanche un piccolo amore. Questo ragionamento fatto per la tua pigrizia ti sia segno certo di patto fedele. Mi devi visitare. Di non so che malattia sto soffrendo, di non so che rimpianto. Grave colpa è la tua se non dai da mangiare agli affamati, se non soddisfi chi ti sta pregando. Vieni, ti ho atteso tanto, non indugiare ancora. Spesso ti ho invocato da chi ti invoca. Vieni. Son caduta in crudele tormento per un cavaliere che ho avuto e voglio sia sempre saputo come estremamente l'ho amato. Or m'accorgo che sono tradita, che non gli concessi il mio amore, onde ho poi sempre sofferto gran pena quando sto in letto e quando son vestita. Ben vorrei questo mio cavaliere stringere una notte fra le mie braccia ignudo, che certo ei si terrebbe per beato sol che io li facessi da guanciale. Perché più ne sono invaghita che fiorio non fu di bianco fiore. Io gli dono il mio cuore e il mio amore, la mia mente, i miei occhi, la mia vita. O bell'amico amabile e valente, quando v'avrò in mio potere che una notte con voi possa giacere e darvi un bacio d'amore, sappiatelo, avrei gran desio d'abbracciarvi al posto del marito, purché meco vi foste impegnato a far tutto ciò che io volessi. Thank you. Thou can creep on utri, sire di so pelerin, orge suis is quante, carpe non sun sorosi. Thank you. rustica puel, la la la la la la la la. Congregue con maculul, la la la la la la la. Cum lana novel, la la la la la la la la. Sunt in greghi parvulu, la la la la la la la la la. O visita zila, la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vitulo con vitulo, la la la la la la la la la. Caperit capillo, la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Conspixit incipite, scolarim sideri, la la la la la. Quitto pacis domine, la la la la la. Vorrei che un coltello mi spaccasse il cuore, che tu v'entrassi e mi fosse richiuso il petto, e tu vi restassi senza mai cambiare dimora, fino al giorno del giudizio e della resurrezione, vivendovi finché io viva e quando morirò, abitando il fondo del cuore nelle tenebre del sepolcro. Ho fuggito chi desidero non per odio, è cosa ben strana un amante che fugge. Pure il mio occhio non sopporta di scorgere viso di gazzella ingannatrice. La morte ha sapore più dolce di un amore che si offre al primo viandante. Ma nel cuore il fuoco divampa, strano davvero un amante angosciato e paziente. Dio ha concesso fra i suoi precetti al prigioniero di mentire al carceriere e ha permesso la biura per tema della morte. Al punto che il credente ti sembra pari all'empio. Benché sia io ormai giunto a età matura, non puoi desiderare che dimentichi. Son chi hai conosciuto come tuo primo amore. Se in inganno ti ha tratto questo mio austero aspetto, sappi che è come il profumo che impregna la giallogora camicia. È il volto di una vita ascetica con cui ho teso la rete di una trappola per la mia caccia alla gazzella dagli occhi tinti di Cajal. Ma quanti desideri per lei ho indossato abiti di tenebra e la dolcezza dei miei modi mi ha fatto raggiungere lo scopo. Per il mio scopo viaggio nella notte come di notte viaggiano le stelle, e tra la gente c'è chi si addormenta e c'è chi viaggia nel mantello. سرم شو به های های ما نیست یقین درام که سرم شو به های های ما نیست که یا بسته و گوشش بگه یه های یقین درام که سرم شو به های های ما نیست یقین درام که از سرم شو به های ما نیز که یار مستم و گوشش بگه به های ما خدا خدا چه سمره ای مؤذن حاکم شو خدا خدا چه سمره ای مؤذن حاکم شو خدا خدای شما خدا خدای ما نیست خدا خدای شما خدا خدای ما نیست خون و مپال و خون بهاد دوا نمود خون و ما پامال و خون به ها و دل و بابد زدم چو بردمنش دست گفت آی ما نیست زدم چو بردمنش دست گفت آی ما نیست بریز خون و ما با دست نازنین خودت بریز خون و ما با دست نازنین خودت اگه که بیتر از این اگه که بیتر از این پیچه خون بهای ما بریز خون و ما با دست نازنین خودت بریز خون و ما با دست نازنین خودت اگه که بیتر از این اگه که بیتر از این این چه خون بهای ما بهار اگه شو صد بار بمیرم از غم بهار اگه شب صد بار بمیرم از غم دوست ز جرم عشق و محبت چنین جزای ما میگیز ز جرم عشق و محبت چنین جزای ما میگیز یقین درام که سرم شو به های های ما میگیز یقین درام که سرم شو به های های ما که یا مستم و گوشش به گریه های مومیه.